non perdere un colpo di Art City e soprattutto per questa esposizione direttamente dal Mambo, che ha una continuità diciamo prolungata, e ne vogliamo dare approfondimento molto volentieri, anche perché merita, come tutte le esposizioni portate dalla nostra sede espositiva Museo di Arte Moderna di Bologna. Con noi il direttore Lorenzo Balbi, bentornato Lorenzo. Ciao William, buongiorno a tutte le persone che ascoltano. Allora, nello spazio della Sala delle Ciminiere più di 100 opere e documenti d'archivio di oltre 70 artisti. Però così, pare quasi uno scherzo, c'è la parola ironia nel titolo. Di che si tratta, Lorenzo? Facile ironia è la mostra che con Caterina Molteni abbiamo pensato per celebrare i 50 anni di storia del Mambo. Infatti la Galleria d'Arte Moderna di Bologna, che è il primo nome di questo museo, è stata fondata il 1° maggio del 1975, quindi tra poche settimane faremo 50 anni, che è un traguardo importante per un museo di arte moderna e contemporanea, per un museo pubblico che ha basato un po' la sua attività di questi 50 anni sulla sperimentazione, sulla ricerca e soprattutto sull'indagine sull'arte italiana. Proprio per questo questa mostra, la mostra che è stata inaugurata il 5 di febbraio e che sarà visitabile nella Sala delle Ciminiere, lo spazio più importante espositivo del museo fino al 7 di settembre, è una mostra che propone una sorta di passeggiata negli ultimi decenni di arte italiana, una indagine, un percorso nell'arte italiana recente che è stato così realizzato mettendo insieme i grandi maestri, figure imprescindibili per l'arte italiana come Gino De Dominici, Spino Pascali, Carlo Accardi, Giuseppe Chiari, solo per citarne alcuni, insieme a figure meno note e conosciute che però ci sembrava giusto recuperare e proporre all'attenzione del pubblico. Come sempre è una mostra che si estende alla stringente contemporaneità, quindi sono stati invitati artisti contemporanei, anche molto giovani, alcuni neanche trentenni, che sono stati chiamati a produrre delle opere nuove per contribuire a questa importante selezione, così come questa volta ci siamo lasciati anche un po' andare nel passato con degli antefatti di questo discorso che sono stati individuati nella metafisica e nel surrealismo, per cui la mostra addirittura parte da opere degli anni 20 del Novecento con dei bellissimi De Chirico, Donghi o Alberto Savinio. Ma dovevamo trovare una linea interpretativa, un possibile tema che potesse in qualche modo guidare questa passeggiata nell'arte italiana, e abbiamo deciso appunto con la co-curatrice Caterina Molteni di dedicare attenzione a quello che pensiamo sia un processo creativo, un modo espressivo veramente peculiare dell'arte italiana, ossia il procedimento ironico, l'utilizzo dell'ironia come strumento di espressione artistica. Una caratteristica che pensiamo sia evidente e che possa ben descrivere anche un atteggiamento degli artisti di casa nostra. Faccio un inciso, ovviamente il titolo della mostra che citavi anche tu, William, è un titolo ironico, facile ironia, in realtà ironizza sul fatto che il processo ironico, utilizzare l'ironia, è tutt'altro che facile, anzi è una cosa molto complessa, e l'ironia così come la intendiamo è il vero significato etimologico della parola ironia, ossia esprimere un concetto, dire qualcosa, ma negandolo oppure dicendo tutt'altro. Il processo ironico è questo, è la volontà di un artista, non solo di arti visive, ma può essere anche un musicista, un designer, un regista teatrale, di cinema, dire, far passare al pubblico che legge, guarda, ascolta, un significato, ma in qualche modo negandolo o addirittura dicendo l'esatto contrario. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il processo ironico mette in mostra un qualcosa che in realtà cela un secondo significato e che l'opera, per essere fruita correttamente, ha bisogno della partecipazione diretta del pubblico, che deve mettersi in gioco, deve portare il proprio vissuto e deve decodificare il messaggio dell'artista per renderlo attivo. Questo è, si parla tanto di arte partecipata, un processo partecipativo in arte tout court, che implica un ingaggio diretto con il pubblico. Su questo ci siamo dedicati e, come hai detto tu, abbiamo selezionato oltre 100 opere di quasi 80 artisti italiani, appunto dell'ultimo secolo, che illustrano con le loro opere questo processo e anche indagano le varie possibilità, perché il processo ironico può portare a diversi esiti che sono riassunti in mostra dalle diverse sezioni, quindi l'ironia come paradosso, l'ironia come gioco, sia linguistico che metalinguistico, l'ironia come strumento di propaganda politica fino ad arrivare alla satira, l'ironia come strumento di lotta femminista utilizzatissimo dalle artiste italiane dagli anni 70 fino ad oggi, oppure l'ironia di oggi che sfocia nella memestetica sull'utilizzo dell'ironia sui nuovi mezzi di comunicazione. Pervadono poi ovviamente la mostra anche altre linee, diciamo, possibili ironiche, come l'ironia macabra o il cosiddetto dark humor, che in qualche modo connettono diverse delle opere che sono esposte. E infatti prima, magari in maniera impropria, nell'incipit di presentazione ho detto un po' in maniera di scherzo, ma è un termine è che mi è venuto in mente, mi pare, Oscar Wilde, che poi affermava: non sono mai così serio come quando scherzo. Ed è assolutamente, questo è un lavoro che ha richiesto molto impegno, infatti. Anche perché, come ti dicevo, è molto più facile essere diretti, è molto più facile esprimere un concetto in maniera diretta. L'ironia prevede che quel concetto venga espresso sì, ma addirittura negandolo o presupponendo che chi ascolta capisca che quello che stiamo dicendo non è il vero significato di quello che vogliamo trasmettere. Per questo l'ironia è tutt'altro che facile. Certo. E per questo pensiamo anche che questo tipo di arte abbia bisogno di un contesto specifico in cui lavorare, e un contesto specifico per essere appresa. Ci siamo chiesti anche con Caterina Molteni come mai gli artisti italiani utilizzano così frequentemente il registro ironico, e siamo andati a pensare che questo sia in realtà dettato dalla contingenza. Ad esempio, un costante raffronto con l'arte del passato, no? Spesso e volentieri si dice: come può un artista lavorare in Italia, che è la culla dell'arte e dove il, diciamo, patrimonio artistico del passato è così presente? È sempre un termine di paragone. Ecco, forse gli artisti e le artiste italiane utilizzano un registro ironico per proteggersi in questo tipo di contesto, oppure anche per il contesto sociale, a partire da decenni di Democrazia Cristiana fino ad arrivare al berlusconismo, che hanno imposto un po' agli artisti di trovare un modo alternativo per far passare i loro messaggi. O addirittura durante, appunto, le lotte femministe, quando sembra che le artiste veramente questo patriarcato lo volessero un po' abbattere a suon di barzellette e pernacchie, quindi facendo passare un messaggio molto importante, profondo e necessario, però con un registro che fintamente lo riportava a un'indagine di scherzo, in realtà mettendo i maschi di fronte alle loro responsabilità. Quindi il gioco, l'ironia come arma di critica, ironia e nonsense, critica istituzionale, dark humor e una grande capacità per quanto riguarda percorsi in mostra, selezione artistica e motivo di riflessione. Io ti ringrazio tantissimo, Lorenzo, per questo approfondimento. Ricordo che sarà fino al 7 settembre 2025, Mambo Galleria d'Arte Moderna di Bologna, nella Sala delle Ciminiere. Quindi a presto e buona giornata. Grazie. Grazie William, a presto, e vi invitiamo tutti in mostra.